modernità, quindi mi sento fuori di posto, come si suol dire, qui mi pare verde, sì, dal momento che vi parlerò più di antichi che di moderni, ma forse proprio per questo si comincia così, quindi mano a mano poi si arriverà al giorno d'oggi. E il tema è un tema topico, io infatti ho distribuito, non so se lo abbiate, una specie di schema più o meno sintetico, forse un po' troppo lungo, verboso, che prende le mosse esattamente dall'opera alla quale ci si riferisce sempre quando si affronta questo problema, cioè il celebre, troppo celebre, discorso di Benjamin Constant, risalente al 1819, che reca quel famoso titolo sulla libertà degli antichi comparata con quella dei moderni. Ovviamente l'obiezione da fare subito a questa mia suggestione è che la parola in questione qui è libertà e non è democrazia, ma poi si capisce leggendo questo celebre testo di Constant che egli pensa ad entrambi i concetti ed è già interessante il fatto che per lui si scambino come sinonimi. Cos'è questo intervento che egli pronuncia? È una resa dei conti con il periodo, il venticinquennio decisivo della storia d'Europa e non soltanto d'Europa, dall'89 al 15, di cui egli è stato peraltro partecipe in modo attivo, non è stato uno spettatore neutrale, anzi, volendo essere cattivi, cosa che talvolta è opportuno, a fin di bene, si potrebbe segnalare la presenza proprio di Constant dentro un'opera al tempo suo celebre e piuttosto scomoda che si chiamava Dictionnaire des Girouettes, e cioè un repertorio delle giravolte politiche di una serie di personaggi grandi, meno grandi, piccoli, con una bandierina ad ogni giravolta, per l'appunto, che è uno strumento di lavoro, secondo me, non inutile e adattabile a molte epoche, non soltanto a quella per noi remota, ma per loro vicinissima. Giusto per la cronaca, diciamo che nella Francia degli anni, dei tardi anni Ottanta, ne è stato pubblicato un altro, riferito però al tempo suo. Perché ho ricordato questo? Perché Constant, che in questo celebre discorso si pone come il teorico dell'antigiacobinismo e del liberalismo, è stato anche in un rapporto di profonda devozione, poi di rottura e poi di ricongiungimento col Bonaparte, cioè col tiranno, cioè con colui che rappresenta per lungo tempo compromesso post-rivoluzionario e poi addirittura instaura, come è noto, un regime di polizia, no? Con una polizia segreta efficientissima, una censura sulla stampa, eccetera, sempre richiamandosi molto pallidamente a quelle nobili origini. Infatti, nell'inizio di questo suo discorso sulla libertà degli antichi comparata con quella dei moderni, Constant fa una, per noi piuttosto singolare, ma all'epoca del tutto comprensibile dichiarazione, e cioè ora finalmente siamo in un regime di libertà, e lui parla nel 19, certo ancora Luigi XVIII e non ancora Carlo X, però sicuramente questa espressione a noi abituati ad una periodizzazione che fa del 15 l'inizio della restaurazione, quindi in un buio passo indietro rispetto all'epoca rivoluzionaria, quella è un'espressione che crea disagio, ma è un disagio sbagliato, nel senso che effettivamente la coalizione che sconfisse il Bonaparte, capeggiata sostanzialmente dall'Inghilterra, ebbe buon giuoco nel presentare il proprio compito come liberare l'Europa dal tiranno. E Bonaparte ha fatto molto per rientrare nella definizione che i suoi nemici gli cuscivano addosso, solo che solo un ingenuo poteva valutare la situazione d'Europa e della Francia stessa nel 19 come un momento di libertà. Però è sintomatico. Il fatto che ci sia un suffragio ristrettissimo, le Camere parlamenti che si eleggono nella Francia della Restaurazione, definiti talvolta introuvable, nel senso che poi non si riunivano mai, con 4-3% della popolazione che vota, rappresenta un modello che per il liberale Constant, in contrapposizione con l'esperienza giacobina, è un modello di libertà. Questo scritto di Constant è stato anche criticato, è stato poco letto in realtà. Si legge il titolo, che è facile perché è abbastanza breve, lo si cita perché è giusto citarlo, però leggerselo da cima a fondo, non è lunghissimo, non è evidentemente stato sempre un compito facile da attuarsi. Uno che l'ha certamente letto e lo critica da un punto di vista iperliberale è Croce, il quale nelle pagine iniziali della storia d'Europa nel secolo XIX affisa la sua garbata polemica contro uno scritto recante quel titolo, perché della libertà non si può fare storia. Lui scrive a un certo punto, io credo di averlo citato in quelle pagine, che della libertà non si può porre nemmeno la domanda se abbia un futuro, ha dinanzi a sé l'eterno. E scritto alla metà del 32, questo pensiero è un po' anacronistico, non tanto per la situazione italiana, 10 anni dalla marcia su Roma, quanto per il precipitare drammatico della crisi tedesca dalla fine del 30, no? Gli ultimi 2 anni e mezzo, 3 della Repubblica di Weimar sono stati tutt'altro che un panorama tale da suggerire quella ottimistica dichiarazione. Ad ogni modo, i filosofi talvolta non hanno capacità diagnostiche, ma neanche gli storici, che ne pensassero i fondatori di questo genere letterario. E quindi, al di là di questa ironia che si può fare più o meno debitamente sulla cattiva profezia di Croce, c'è da dire che per lui il problema non esiste neanche. Perché? Perché si tiene alla definizione rigorosa del concetto di libertà. Peraltro, come è noto, in altra parte della sua opera, egli sostiene che la libertà, essendo interiore, è inattingibile dagli assalti del tiranno, che è una visione che riecheggia un pochino quella dei famosi paradossi degli stoici, secondo cui l'unico uomo libero è il saggio, perché il saggio è totalmente indenne da assalti tirannici o dispotici o comunque miranti ad incrinare quella sua autonomia che è sinonimo di libertà. Invece Constant ha in testa qualcosa di più concreto, cioè che cosa è stata la gestione della vita pubblica, del rapporto tra le classi sociali nel periodo inaugurato dalla rivoluzione giacobina e che cosa è invece, secondo lui, lo scenario che i moderni devono considerare loro proprio. La polarità che lui stabilisce quindi non è tanto sulla definizione della parola libertà quanto sul quello che lui chiama il potere sociale. Potere sociale, il pouvoir social, è l'insidia principale alla libertà. I giacobini, che lui non nomina esplicitamente, ma si capisce benissimo che parla di loro, hanno voluto imporre alla Francia un sistema che essa non voleva. E anzi, come mi è capitato varie volte di ricordare anche in questo breve riassunto, si diverte a mettere in luce sinistra, se non sarcastica, i padri fondatori del pensiero giacobino. Nomina Mably, non nomina Rousseau. Nomina Mably perché gli sembra meglio vulnerabile, avvolto nel mantello di Licurgo, quindi il modello della più interventista delle cosiddette repubbliche antiche, cioè appunto Sparta, avvolto nel mantello di Licurgo, cerca dovunque, in qualunque legislazione esista al mondo, norme liberticide rispetto alla libertà individuale e le adotta. Aveva, lui dice a un certo momento, nella libertà individuale quasi un suo nemico personale. Quindi il quadro che egli tratteggia è una democrazia oppressiva, una democrazia interventista. Questa è la città antica. Con delle sfumature, egli non è inconsapevole delle distinzioni storico diagnostiche che erano state fatte lungo tutto il Settecento. Montesquieu distingue fortemente, nettamente, l'Atene ricca e dedita ai commerci e quindi tendenzialmente libera, da Sparta totalitaria, egualitaria fino all'estremo, virtuosa e oppressiva. Per gioco polemico è chiaro che gli fa comodo, quando il bersaglio deve essere chiaro, additare il caso estremo, che è appunto quello spartano, con una semplificazione che non è addebitabile a lui soltanto, ma semmai addebitabile alla stessa retorica rivoluzionaria, che aveva messo sullo stesso piano queste varie realtà in maniera estremamente confusa o comunque disinvolta, attraverso un uso molto poco critico delle fonti antiche di informazione, giocate in una mescolanza sincretistica che non ha nulla di critico. Infatti credo che sia giusto ricordare, l'ho ricordato sempre in queste paginette alle quali faccio riferimento, che i critici del giacobinismo in tempi diversi, a cominciare dal termidoriano Volney, accettano la sfida e smascherano le repubbliche antiche. Volney era professore di storia all'École Normale, le sue lezioni di storia all'École Normale sono state pubblicate già al tempo suo e ripubblicate anche in tempi a noi più vicini in utilissimi volumi, e pone per primo la questione, o quasi per primo secondo me, ma adesso andiamo nei dettagli eruditi, della schiavitù come la grande macchia che cambia le carte in tavola nell'ammirazione o rispetto all'ammirazione per le repubbliche antiche. Quindi ci state mostrando un modello al quale volete conformarci, che è appunto questo di Atene, Sparta e Roma mescolate in un'unica visione molto confusa, e invece quelle erano realtà liberticide, ma non tanto dal punto di vista che sta a cuore a Constant, dell'interventismo nella vita dell'individuo, quanto nel basamento sociale delle antiche repubbliche, che negano, per il fatto stesso che praticano la schiavitù, i principi di libertà su cui dicono di fondarsi. Questo aspetto Constant lo sfiora semplicemente, però gli sta a cuore l'altro, che è quello appunto della libertà individuale conculcata. Lo schema del suo ragionamento molto, è una diatriba in certo senso, ha un andamento di un plaidoyer molto vibrante. La stessa Atene, che nel quadro tracciato da Montesquieu è pur sempre, forse anche per influenza dell'epitafio Pericleo, che intanto rimbombava con quelle strane formulazioni di cui poi forse parleremo, persino Atene è la città che manda a morte il filosofo Socrate, e lui sapeva benissimo quanto fosse imbarazzante questa vicenda per i difensori della grandezza e illuminata gestione del potere degli antichi, perché certo aveva in mente quelle pagine del trattato sulla tolleranza di Voltaire, il quale si trova un po' in difficoltà dinanzi al processo contro Socrate, e che è stato condannato da per un pugno di voti, no? Pochissimi voti, in questo tribunale popolare di giudici sorteggiati, scelti a sorte, che è una caratteristica peculiare della democrazia ateniese. E Voltaire si consola dicendo: beh, in fondo c'erano quasi 300 filosofi in questa città, perché erano quelli che volevano assolverlo, che è un escamotage dialettico che non vale, rispetto al quale appunto Constant ha buon gioco dicendo: è la città che manda a morte il filosofo, che perseguita i generali delle Arginuse e manda a morte anch'essi, vincitori di una battaglia importantissima, messi sotto processo per ragioni sacrali molto discutibili, che tormenta Pericle, per il grande Pericle, per la sua libertà di pensiero, per il milieu di personaggi di cui si circondava, a cominciare dalla odiatissima Aspasia, che non era neanche ateniese, non era diciamo, non corrispondeva allo schema della donna ateniese, anzi lo ribaltava radicalmente. Amico di Anassagora, il filosofo considerato ateo, basti pensare alle Nuvole di Aristofane, dove il bersaglio è Socrate, certamente, in quanto anassagoreo. Anassagora è colui che riconduce tutto agli elementi, la luna, la terra, ma non dà spazio agli dèi. Una città che perseguita il suo leader più illustre, secondo Constant probabilmente anche il più fortunato dal punto di vista dei risultati, in nome di questo oscurantismo, avendo la possibilità di intervenire con la via giudiziaria sulla esistenza stessa di personaggi del genere, è una città liberticida. Ma gli sta veramente a cuore il problema del libero pensiero? Forse no, forse non del tutto, sono, torno a dire, degli elementi di un plaidoyer polemico. Il problema che gli sta a cuore è la gestione indiscriminata della ricchezza. La ricchezza individuale non può essere messa, resa bersaglio di un pouvoir social. È curioso che le conoscenze di cui dispone rispetto al funzionamento della città antica non lo abbiano aiutato, non lo abbiano soccorso proprio su questo punto che tanto gli sta a cuore. Perché effettivamente l'elemento caratteristico della città antica di tipo democratico, quindi Atene per tutte, è il controllo sulla ricchezza, esercitato attraverso i tribunali. L'immagine corrente della città democratica che ruota intorno all'assemblea popolare e che lì prende le sue decisioni, dove i politici stessi sono al carro di una massa capricciosa o comunque onnipotente, è un cliché erroneo. E su questo infatti volevo, lasciando ormai Constant al suo destino, soffermarmi. Perché? È chiaro che noi abbiamo della città antica una serie di immagini ricavabili dalle fonti. Dobbiamo fare rassegnarci insomma al fatto che nessuna fonte si esprime in modo favorevole al modello democratico, e non è usuale dirlo perché fuoriesce da un cliché. D'altra parte il giudizio e l'apprezzamento, la valutazione della città democratica antica di Atene in particolare ha costituito un campo di battaglia tra gli storici nel tempo. Ho ricordato prima Volney, potrei ricordare Tocqueville per quel celebre capitolo nella Democrazia in America, in cui addirittura definisce la democrazia ateniese un'aristocrazia, sempre in omaggio alla questione della grande quantità di schiavi. Ma è nell'Ottocento, soprattutto nel secolo XIX, che lo scontro avviene tra l'interpretazione liberale alla Grote, liberale radicale, liberale tipo inglese, per cui quella è l'anticipazione del parlamentarismo britannico e delle sue vivaci dinamiche, mentre l'interpretazione conservatrice, soprattutto di matrice tedesca, il grandissimo Eduard Meyer, per esempio, che non era un dilettante come Grote, era un professionale cultore della storia antica, che vede invece nella città democratica la Terza Repubblica francese e quindi il disordine, e quindi il regime di massa non chiarissimamente delineato. Regime di massa, ma in realtà l'Assemblea Popolare Ateniese è un meccanismo curioso, è un meccanismo che dentro per dentro le fonti ci fanno intravedere. C'è un passo famosissimo, ma non sempre messo a frutto, dell'analitica narrazione che fa Tucidide del colpo di Stato del 411, cosiddetto colpo di Stato, che in realtà è una modifica costituzionale avallata dall'Assemblea Popolare, quindi ha tutti i crismi della legalità. Però nella storiografia la si chiama così brevemente, quella svolta, il colpo di Stato oligarchico. In quella circostanza alcuni di questi oligarchi, cercando di convincere gli incerti dell'opportunità di limitare la cittadinanza a 5.000 persone rispetto ai circa 30.000 aventi diritto a una piena cittadinanza nella città di Atene alla fine del V secolo, dicono In fondo, anche quando l'assemblea funziona a pieno regime, al massimo ci vanno 5.000 persone. Come a dire, è inutile indicare in questa limitazione della cittadinanza una sopraffazione. Siete voi stessi che vi autolimitate con un assenteismo massiccio rispetto a questo strano luogo geometrico del potere che è l'assemblea. L'assemblea in realtà non può funzionare come polemicamente viene evocato da questa battuta degli oligarchi del 411, anche perché Atene è uno stato regionale, non è una città-stato. Città-stato è una formula dei moderni che significa poco, una metafora, è uno stato regionale, quindi è tutta l'Attica divisa in comuni, demi si chiamavano, con un agglomerato centrale dove ci sono i luoghi del potere e in primis il luogo dell'assemblea, della riunione di tutti in linea teorica. Solo che appunto l'assenteismo per ragioni molteplici, compreso il fatto che tutti i contadini di varia statura, specialmente medio-piccoli, non hanno il tempo di dedicarsi all'assemblea, non hanno neanche interesse, e l'assemblea è di volta in volta dominata da un gruppo sociale che ne è il frequentatore privilegiato. Paragone si potrebbe fare, quasi un cortocircuito, ma lo faccio ugualmente, con le sezioni parigine dell'anno secondo della prima Repubblica Francese, che di fatto, in una situazione in cui Parigi è assediata, con il Midi che se ne va da una parte, la Vandea che si ribella, gli eserciti stranieri che penetrano dal Belgio, Parigi è anche una sorta di Atene in cui le sezioni frequentate da sanculotti, popolani, premono sulla convenzione. La convenzione si adegua alla pressione che viene dalla sans-culotterie, come veniva chiamata. Ma quando dopo il 9 di Termidoro Robespierre viene ammazzato e i giacobini sono in rotta, le sezioni non scompaiono, sono popolate da altri borghesi che non ci andavano nemmeno durante l'anno secondo. Una sorta di ricambio ematico, no? Come, o disintossicante, come, per usare una metafora medica. E nell'assemblea ateniese in certo senso avviene questo, lo dico per larghi tratti, nel 462, che è l'anno forse più importante della storia di Atene nel V secolo, viene varata una riforma fondamentale, quella che toglie i poteri giudiziari all'Areopago, che è un tribunale aristocratico, di cooptazione, l'equivalente del Senato romano, potremmo dire, con molte modifiche, insomma, molti distinguo, e delega il potere giudiziario, tranne che per i reati di sangue, ai tribunali popolari, che sono scelti a sorte da liste di cittadini qualunque, cosa che naturalmente suscita l'indignazione di coloro che invocano la competenza come criterio di scelta. Questa riforma passa perché in quell'anno all'assemblea di fatto non ci sono i famosi opliti in grado di armarsi a proprie spese, che sono la base sociale moderata, Cimone, ecco, è l'uomo che li rappresenta. Sono impegnati nel Peloponneso in una guerra assurda a sostegno di Sparta contro gli schiavi ribelli della Messenia. Passa la riforma di Efialte, che viene ammazzato subito dopo, perché l'assemblea non ha i suoi abituali frequentatori, ma ne ha altri, cioè ha i famosi marinai, non possidenti, nulla tenenti, i teti, che sono impegnati sulle navi quando c'è guerra marittima, ma altrimenti gravitano verso l'assemblea. Un loro punto di forza è il Pireo è stato sempre l'epicentro della cosiddetta democrazia radicale antica. Quando nell'11 avviene quello che ho prima ricordato, siamo in una situazione opposta, cioè i marinai sono sulle navi, c'è una situazione critica dopo la sconfitta in Sicilia e all'assemblea passano un paio di norme, una delle quali è l'abrogazione del salario per le cariche pubbliche. Ecco la dinamica concreta di questo strano oggetto che è l'assemblea. Dunque il focus è nei tribunali, dove ad ogni passo la ricchezza è sotto pressione. Perché la ricchezza? Perché la ricchezza serve a far funzionare la città. Noi parliamo, usiamo la parola Stato in maniera indebita quando parliamo della polis, o comunque delle realtà antiche, perché sono sostanzialmente prive di quella strutturazione che la condizio sine qua non di un potere statale. Tutte le esigenze della città, fabbricare navi, finanziare feste, finanziare il teatro, ogni altra esigenza è finanziata dai ceti ricchi che sono richiesti di liturgie, come si chiamano, le liturgiai, che potrebbero anche essere definiti offerte spontanee, ma di spontaneo c'è pochissimo naturalmente. Infatti uno dei meccanismi coercitivi è quello dello scambio del patrimonio, no? Un ricco si rifiuta di pagare il teatro per le grandi Dionisie, allora un altro cittadino dice: beh, allora scambiamoci i patrimoni, perché se sei più povero di me, allora un processo non finisce mai, eccetera. Quindi è una, nelle Vespe, torno ad Aristofane, che è una delle fonti primarie per noi su quegli anni, un arco di tempo che corrisponde grosso modo a quello della guerra del Peloponneso, la mania dei processi. Lui mette in ridicolo la mania dei processi, ma la mania dei processi vuol dire semplicemente che la lotta, diciamo pure di classe, tanto non saremo arrestati per aver usato espressioni così audaci, si svolge in quella sede lì. E infatti quando il 403 a 4-3, i cosiddetti 30, altra magistratura straordinaria varata dall'assemblea sotto la pressione dei vincitori spartani, prendono il potere, per prima cosa fanno? Abrogano le leggi di Efialte, cioè cancellare le leggi di Efialte che avevano dato ai tribunali quel potere. Quindi lo scontro avviene in quel modo. E infatti nel secolo IV, quando ormai l'impero non c'è più, pauperismo crescente, conflitto sociale endemico, Demostene ne parla infinite volte, lo stesso Demostene, che poi è il figlio di un ricco signore, un grande armatore impoverito perché i tutori lo hanno spogliato di quasi tutto, ma comunque fa una sua carriera, diventa un leader all'inizio proprio della carriera, ha una sua formulazione, un certo discorso che si chiama sulle simmorie, che riguarda l'ordinamento economico della città, e dice: la ricchezza c'è, è nascosta, ma è inutile sforzarsi di tirarla fuori, quando è necessaria verrà fuori, nel senso che ormai la partita è persa, non riusciremo a piegarli. Ci sono autodifese robuste dei ceti possidenti, i quali, se del caso, poi si rivolgono a forze straniere, no? La Macedonia prima e i Romani poi sono stati gli interlocutori dei ceti ricchi nelle città greche, no? Cosa che sappiamo da uno straordinario testo come quello di Polibio e dal suo grande interprete che è Fustel de Coulanges, no? Il famoso bellissimo testo suo, che era poi la sua tesi, La Grecia conquistata dai Romani, si apre proprio con questa schematica formulazione. Tutte le città erano divise dal conflitto tra ricchi e poveri, i ricchi cercavano aiuto fuori, prima i Macedoni e poi i Romani, che hanno dato un ordinamento durevole alla cosiddetta provincia di Acaia. Questo quadro è l'antitesi della libertà individuale secondo l'interpretazione di Constant, il quale appunto ritiene di poter dire la ricchezza prevale sul governo, ed è un inno al liberismo. Indifferente egli resta rispetto al problema che invece attraverserà tutto il secolo XIX della conquista del suffragio, che al tempo suo è un suffragio limitatissimo. Già il Bonaparte aveva fatto di tutto per limitarlo ampiamente rispetto alle disposizioni più che altro rimaste teoriche delle varie costituzioni succedutesi durante la prima Repubblica francese. Questo quadro è abbastanza noto. L'elemento sul quale io insisto è ridisegnare in maniera realistica i tratti fondamentali della città democratica greca e quindi soprattutto di Atene. Respingo l'oleografia che è stata incrostata intorno ad alcuni testi, come in primis il celebre epitafio Pericleo, per la ragione che a leggerlo attentamente quel testo dice proprio il contrario di quello che gli si fa dire. Faccio solo un cenno brevissimo, vista la notorietà di quel testo e l'uso pervasivo che se ne è fatto in tutte le epoche, qualunque celebrazione storiografica di qualunque livello. Quando all'inizio proprio del suo discorso egli, come è giusto fare in quelle circostanze, descrive il sistema politico della città, dice, lo parafraso per essere più spedito, un pochino lo forzo anche il testo, ma per renderlo più chiaro me ne rendo ben conto, in mancanza di altro termine lo chiamiamo democrazia, questo sistema, che però non rassomiglia a nessuno degli altri sistemi esistenti, e già questo andrebbe apprezzato. Però nelle dispute in tribunale tutti hanno la stessa parte. E questa frase, che di solito viene intesa come un inno alla bellezza dei tribunali ateniesi, dove regna la giustizia bendata, che non fa sconti a nessuno, in realtà vuol dire l'esatto contrario. Cioè, lui dice il falso, che non è affatto vero che nei tribunali il ricco è trattato come dire, con l'equità che si aspetta. Il ricco è oggetto di una pressione fortissima, appunto perché è l'unica fonte cui la città può attingere, e il suo ruolo direttivo ha come contropartita di rendersi utile alla comunità. Quindi quell'espressione la dobbiamo chiamare democrazia perché non c'è un altro termine, però in tribunale ognuno ha la sua toison, no? La parte uguale, e alla luce di quello abbiamo appena detto, una definizione molto riduttiva del termine idealizzato dai moderni. Peraltro si potrebbe soggiungere che molto tempo dopo, ormai all'inizio del secolo successivo, un pensatore ostile strutturalmente alla democrazia come Platone ci dà, in un dialogo curiosissimo che si chiama Meneseno, una parodia dell'epitafio Pericleo, lo fa pronunciare ad Aspasia e dice: è stato costruito con gli avanzi dell'epitafio di Pericle, è un gustoso gioco naturalmente sui ruoli rispettivi, e Aspasia nel suo epitafio, quando arriva al topico luogo in cui deve dire che cos'è la Costituzione vigente, dice: alcuni la chiamano democrazia, altri in un altro modo, in realtà è una aristocrazia col consenso popolare. Ed è la definizione più acuta che si possa dare di quel meccanismo. Per varie ragioni, intanto alcune proprio strutturali, che cioè le uniche cariche elettive, che sono anche le più importanti, quella militare e quella finanziaria, sono riservate alle due classi di censo più alte. Anche in tempi di riforma di Efialte vigente e operante, quindi quando si legge, come accade a noi sempre lavorando, la lista degli strateghi, dei famosi strateghi, no? Dei capi militari che vengono eletti ogni anno, uno per tribù, Atene ha 10 tribù, sono 10 strateghi, è tutto per 10, insomma, la struttura clistenica, no? Del funzionamento urbano, siamo pur certi che quei signori sono tutti o cavalieri o più che cavalieri, cioè sono delle ultime due classi di censo. Quindi anche il povero Cleone, che Aristofane raffigura come un mostro, va bene, tutti i difetti del mondo, ma come si usa immaginarselo, un popolano incolto, feroce, eccetera, è un Ippeus, è un cavaliere, cosa che ci risulta anche da alcune notizie erudite. C'è una divisione sostanziale tra, come si dice, signori e popolo, cioè un leadership cavata dalle classi alte, che sono quelle che poi hanno la cultura, la formazione retorica, i requisiti per usare quello strumento formidabile che è la parola, e gli altri che sono la massa di manovra, che naturalmente esercita una pressione fortissima, non sono soltanto passivi ascoltatori votati ad applaudire, come si capirebbe da certi cenni del bravo Diceopoli all'inizio degli Acarnesi di Aristofane. E ancora una volta è Tucidide che ci sovviene in aiuto, perché nel tentare di descrivere il potere di Pericle non riesce mai a darne una fotografia sintetica. A un certo punto lo definisce protosaner, quindi un princeps, dice: era guidava piuttosto che essere guidato, che è un'espressione che ovviamente in greco è ancora più chiara, nel senso che il dire questo piuttosto che quello non vuol dire che l'uno esclude l'altro, vuol dire che nel bilanciamento delle forze l'elemento leadership, l'elemento guida, prevaleva sul assecondare la pressione dell'assemblea. Quindi un equilibrio difficile. E del resto Platone nel Gorgia dice Pericle corruttore del popolo, cioè uno che gli va dietro. Dal suo punto di vista è ovviamente estremizzato. Insomma, questo meccanismo che si fonda sul dominio di ceti alti che accettano di farsi legittimare attraverso il meccanismo elettorale, per esempio, dell'elezione alla strategia, è un modello ben diverso da quello che viene normalmente assunto come la democrazia antica e come in fondo l'ha capita lo stesso Constant quando ne fa bersaglio della sua critica. L'ha ben capita soltanto nell'altra questione, ma non la rende esplicita, quando dice per noi la ricchezza deve essere messa a riparo. Questo sistema è apparso agli interpreti di epoca romana che hanno letto questa realtà attraverso fonti e poi l'hanno vista funzionare in un'epoca molto più tarda, come un eccesso, come un sistema nimia libertas, dice Cicerone quando parla della realtà romana, un eccesso di libertà. Ancora una volta poi le due parole si inseguono, pur essendo così diverse, distinte concettualmente. Nimia libertas, detto svariate volte, poi in latino la parola democrazia non esiste, quindi il fatto che non sia la parola vuol dire che non c'è neanche la cosa. E l'ordinamento romano a Polibio, che da ostaggio portato a Roma, proiettato nell'ambiente più decisivo della famiglia degli Scipioni, osserva questa realtà per lui gigantesca, a Polibio quel sistema parve l'incarnazione finalmente del sogno di alcuni pensatori politici o politici tout court del mondo greco, il sistema misto. Infatti nel sesto libro delle storie, che purtroppo abbiamo soltanto per estratti ma molto ricchi, che ci aiutano parecchio ma insomma non bastano, noi cogliamo un elemento molto significativo, cioè Polibio racconta la storia dell'imperialismo romano sostanzialmente, di come Roma ha unificato il Mediterraneo, per lui questa è la grande luce che rende possibile un racconto che si chiami storia universale. Si può fare storia universale soltanto se è organica, e soltanto quando Roma unifica il Mediterraneo si può scrivere storia universale. I greci che l'hanno fatto facevano una storia paratattica, mettevano in fila tante storie parallele o consecutive. Dinanzi a questo fenomeno lui arriva a raccontare l'episodio tremendo della sconfitta di Canne, no? La seconda punica. Lui ha visto anche molto dopo la vicenda, al seguito di Scipione Emiliano, è andato in Spagna alla distruzione di Numanzia, quindi insomma, ha visto un molto da vicino come funzionava questo regime perfetto. Ma il nesso che stabilisce tra l'inaudito, Roma supera la crisi di Canne, cioè non crolla nonostante Canne, nonostante la perdita di due eserciti consolari e la possibilità per Annibale di arrivare addirittura a puntare sulla capitale. Il fatto che Roma regga anche a questo è dovuto alla sua Costituzione. Cioè, il nesso è sconfitta, superata in modo inaudito, ordinamento perfetto. In realtà già nell'epitafio di Pericle c'è questo nesso. Noi siamo quello che siamo come potere imperiale, eccetera, per quella peculiarità che è insita nella nostra politeia. Però è detto molto velocemente. Polibio dedica un libro intero. Questo libro ha avuto una grande fortuna, Machiavelli lo ha tradotto da traduzioni latine, l'ha infilato nell'inizio dei discorsi di Tito Livio. L'ordinamento è misto perché l'elemento popolare, l'elemento aristocratico e l'elemento monarchico coesistono. C'è del vero naturalmente in questo, perché il potere dei consoli è certamente un potere enorme. Quando Livio racconta la nascita della Repubblica all'inizio del secondo libro delle sue storie, dice che in fondo i consoli ereditavano dalla monarchia l'enormità del potere, solo che erano limitati dal fatto di essere due e di durare un anno soltanto. Quindi il contenuto del potere dei consoli appare anche a Livio assimilabile a quello monarchico. Perciò Polibio non ha torto nel dire che quello è il residuo, quel che sopravvive dell'elemento monarchico. Quanto all'elemento aristocratico, non ci vuole Polibio per capirlo, perché il Senato romano è strutturalmente la sede di un'aristocrazia di cooptazione dinamica che si riforma, si rigenera attraverso il meccanismo indiretto, perché i migliori magistrati attraverso le liste dei censori entrano nel Senato. Quindi a rigore l'elemento elettivo c'è, ma è immediato, e poi diventa vitalizio, nel senso che restano lì dentro. Organismo, il Senato ha sofferto moltissimo, adesso si parla sempre molto male del Senato romano, però ne ha viste di tutti i colori, proscrizioni, ammazzamenti, allargamenti pazzeschi come quello cesariano a 900 membri, per cui persino un uomo come Sallustio, che pure è un cesariano, poveretto, dice quot genera hominum in senatum per venere, che roba vediamo lì nel Senato, ma era fatto per diluire un organismo che non è mai stato del tutto estirpato nel suo contare moltissimo nella Repubblica. E l'elemento popolare è quello schiacciato nei comizi e disciplinato da regole che rassomigliano vagamente a quelle dei borghi putridi inglesi dell'inizio dell'Ottocento dal punto di vista della prevedibilità dei risultati e della dinamica. Quindi Costituzione mista noi la possiamo considerare con occhio critico, per Polibio è il palladio, la vera ragione del successo, ed è, come ho detto prima, l'approdo desiderato, ma rimasto sempre irrealizzato, anche di larghi strati di moderati, anche ambienti filosofici, eccetera, delle città greche, in particolare di Atene. Ancora una volta citiamo il grande storico della guerra peloponnesiaca, quando Tucidide, che fu, credo, partecipe un po' del moto oligarchico dell'11, descrive la fine di quell'esperimento e dice, per breve tempo, ci fu effettivamente il governo dei 5.000. I 400 le avevano fatta una lista, se l'avevano fatta, ma non l'avevano mai fatta entrare in funzione. Quando essi escono di scena, vige per breve tempo il cosiddetto regime dei 5.000. E lui dice era perfetto, perché era la mescolanza, meixis, di pochi e molti. Cioè esattamente quel concetto, detto in maniera più semplice, della Costituzione mista, che contempera il principio democratico con quello oligarchico selettivo. Siamo lontani da questo? Tendo a pensare, anche perché vorrei ora lasciare la parola ai critici, che l'evoluzione dei nostri sistemi, che hanno naturalmente una storia totalmente diversa legata alla conquista del suffragio universale come architrave del movimento democratico e socialista in tutto il secolo XIX, la grande delusione del suffragio universale che non porta allo sperato risultato, anzi addirittura nel Novecento porta a esiti che sono inquietanti. Arthur Rosenberg ha scritto nel 32-33 Fascismus als Massenbewegung, e il problema suo è com'è che il suffragio universale non ha fatto vincere le forze socialiste che si sono battute per decenni per quel. Quindi la storia è quella. Però ecco, l'odierna analisi delle società nelle quali quel meccanismo è ormai tradizionale e nelle quali una critica della vera natura di esso è incominciata da tempo, almeno da un secolo, pensiamo alla scuola elitistica che studia i meccanismi veri che stanno dietro al parlamentarismo, nel nostro mondo in cui ovviamente la legittimazione elettorale è l'alfa e l'omega, senza di essa si va a picco, il selettivo determinarsi di ceti decisivi, retroscenici o comunque in grado di pilotare il funzionamento della macchina è l'equivalente moderno del regime misto. Ma nella sociologia inglese e americana, soprattutto recente insiste molto su questo terreno, cioè, naturalmente non sono delle democrazie, anzi la democrazia è impossibile perché è un principio puramente orizzontale, dicono loro con un linguaggio geometrico, ma insomma abbastanza chiaro. L'elemento verticale è irrinunciabile, l'elemento verticale ha le sedi sue proprie, che sono quelle tecniche, quelle del grande potere economico, lo svuotamento del potere effettivo dei parlamenti. Quindi coesistono i tre principi, forse o perlomeno due di essi, anche dentro quello che a noi appare essere l'approdo di una lunga storia, che è una storia ovviamente mirante alla uguaglianza del suffragio e quindi all'uguaglianza nella cittadinanza. Il tempo scorso alle nostre spalle aveva visto, per almeno 70 anni potremmo dire, e soprattutto nel secondo dopoguerra in modo particolarmente accentuato, uno scontro, come si diceva allora, di sistema. Due modelli che si scontravano, che si contrapponevano. L'uno faceva la più spietata critica dell'altro, nel senso che ne coglieva i veri aspetti celati dietro l'autorappresentazione propagandistica. E in quel tempo, che ormai è abbastanza lontano da noi, quindi lo possiamo anche considerare storiograficamente, senza un eccesso sovrappiù di passioni, l'autorappresentazione del mondo occidentale, soprattutto di quello euroatlantico, era la democrazia versus totalitarismo, la dittatura, quello che si vuole, dittatura di partito, la falsa democrazia proletaria. Non c'è stato critico più severo della mancanza di democrazia proletaria dei critici occidentali del mondo sovietico, quasi dolenti che questa democrazia proletaria lì non si fosse veramente realizzata, tutti intimamente trotskisti questi nostri teorici, ma va benissimo, nel senso che per amore di polemica si dicono anche delle cose vere ogni tanto. Ma ora non è più necessario questa recita, diciamo, non è più necessaria, quindi è divertente e anche gustoso vedere i nostri interpreti, i grandi sociologi e politologi, ma è ovvio che non è una democrazia, è un sistema misto, e quindi noi abbiamo questa nuova realtà con la quale cimentarci.